Eccoci qua, dal castello. Dal castello, sì, di nuovo in diretta alle 19:15 puntuali. Ma ovviamente siamo in ritardo, ma perché siamo in ritardo? Perché oggi al castello manca la figura principale che ci ha coinvolto in questa edizione del lunedì. Manca il nostro grande sovrano Camicia. Esatto, esatto, colui che è sempre qui a spippolare alla tastiera, ai cursori per regolare tutto, non c'è e quindi noi ovviamente ci troviamo in difficoltà. Ovvio, ovvio, perché si sa che la tecnologia per noi veri abitanti del castello, soprattutto per me che sono la dama, sto proprio negata. Infatti mi sgridano sempre anche da Wombat, faccio sempre qualche errore. Però vabbè, pazienza ragazzi, non si può avere di tutto. E anche oggi di che vogliamo parlare? Caro gringo. Allora, oggi insomma si farà un po' di interventi musicali e di chiamate a vario titolo di amici. A vario titolo di amici, sì, perché dal castello, insomma, un po' sulla scia delle precedenti dirette dal castello del lunedì, vogliamo continuare a dare voce a delle persone che conosciamo. O che conoscono amici, insomma dei contatti che un po' cerchiamo, un po' conosciamo, che stanno facendo delle cose o che hanno insomma lavorato in determinati settori in questo periodo molto molto faticoso. E quindi chiameremo prima Maria Grazia da Trento, che fa parte di un gruppo di teatro dell'oppresso e ci racconterà un pochino insomma come sono riusciti a fare il teatro dell'oppresso nonostante il distanziamento sociale, ecco, diciamoci così, e che cosa significa e come lo stanno usando adesso per dare voce un pochino insomma alle persone che incontrano. E poi chiameremo Marco da Modena, che invece lui insomma lavora, ha sempre lavorato e continua a lavorare per un sindacato in questo periodo, un sindacato che si occupa anche di lavoratori nel sociale e che quindi sicuramente insomma ne avrà da raccontarci insomma la sua visione di questo periodo insomma e quello che è successo. Quindi bene, anche oggi poi vabbè ci sarà sempre la voce della Dani con la sua rubrica. Esatto, che ormai insomma la grande Dani, che ringraziamo noi la ringraziamo tutte le volte ci manda sempre questi contributi preziosi da Bergamo, insomma noi la sfruttiamo il lavoro altrui siamo un po' schiavisti da questo punto di vista, però la Dani fa un ottimo servizio alla comunità, ma anche insomma a tutte le radioascoltatrici di Wombat. E poi c'è, tu mi dicevi, perché ovviamente ci siamo collegati all'ultimo minuto, siamo rientrati al castello di corsissima dopo giri e quindi insomma scusateci un po' per l'arraffamento, però sì. Anche te avevi del materiale prezioso da volerci esporre oggi, caro gringo. Sì, parleremo, viste le tante manifestazioni che in Italia si sono svolte, si stanno svolgendo e si svolgeranno a sostegno del movimento Black Lives Matter in seguito all'uccisione di George Floyd. Parleremo un po' di quello che sta succedendo in Italia, insomma daremo faremo una rassegna più che altro, non un contributo, diciamo. Sarebbe anche troppo. Vabbè, una rassegna è già interessante. Inquadreremo quello che è successo e, insomma, analizzando magari qualche punto, ma proprio così per dare giusto una visione panoramica di quello che è successo e perché è partito tutto così per George Floyd e magari non per altri, perché non è il primo afroamericano negli ultimi anni, purtroppo. Quindi daremo il nostro contributo. Bene, bene. E poi vabbè, devo dire, colgo la palla al balzo per dire anche questa cosa, insomma, è da un po' che scendo a Firenze e la vedo finalmente un po' viva, e anche qua si è iniziato con il 30 maggio a fare tutta una serie di manifestazioni, quindi forse il distanziamento sociale non sta frenando del tutto l'indole delle persone di farsi sentire e farsi vedere in piazza, manifestare e ritrovarsi. Questo grazie a Dio, insomma. Esatto, sì, sì, cioè, ma di manifestazioni ora ne sono state fatte tante anche nell'ultimo fine settimana. Sì, fortunatamente la voglia di lottare contro le ingiustizie non si è fermata, con le dovute cautele si cerca di mettere in atto, ma fortunatamente sì, abbiamo ripreso anche noi a sognare un mondo migliore. Bene, dai, speriamo in una ripresa con un po' di brio per questa nostra società. E intanto, vabbè, prima di telefonare a Maria Grazia dal Trentino, mandiamo una canzone. Tutta scelta del nostro gringo, quindi oggi sarete fortunati, non scelgo io la musica. Viva sempre Radio Wombat. E ricordiamo un pochino com'è possibile ascoltare Radio Wombat. Esatto, sì. Allora, potete ascoltarci in diretta alle frequenze AM 13.59, stavolta ho studiato. Bravissimo gringo, ti vedo preparato. dal sito di Wombat, quindi wombat.noblogs.org, seguite streaming e vi troverete i link per seguirci anche lì in diretta. Poi se volete mandarci un messaggio potete farlo attraverso il pad e trovate anche lì il link in home page di wombat.noblogs.org oppure alla non siamo a Radio Contado oggi, ecco, diciamolo. Stasera per il lunedì sera per comunicare con noi c'è il pad, o chissà amici, parenti, conoscenti che hanno il nostro numero diretto anche attraverso WhatsApp, ma non è detto che lo guardiamo perché siamo molto concentrati in questa diretta. Esatto, direi che il pad è la cosa migliore. E inoltre, vabbè, chi vuole, chiunque voglia, poi ci sono i podcast, ci sono tutte le altre cose per riascoltarsi le puntate. E una mail anche di Wombat è un posto dove comunque lanciare dei messaggi, eccetera. Quindi insomma, di modi per entrare in contatto con noi ce ne sono. Ce ne sono. E nel frattempo proviamo a far partire la telefonata. La prima chiamata. A Maria Grazia. Vediamo se tutto funziona. Chiamata in corso. Sta funzionando il jelly bean. Pronto? Buonasera. Aspetta un attimo, Maria Grazia. Io sono la dama del gringo. Siamo in diretta. Ma non capisco perché non ci funziona. Non si è collegato. La cassa di risonanza. Vediamo, forse adesso riesce a prendere qualcosa. No. Comunque non vuole funzionare. Abbiamo in diretta Maria Grazia e allora, nonostante i nostri adesso provo i mezzi stiamo cercando Nico Piccino, Jelly Bean, accoppiato, mi dice che è accoppiato. Vai Mari, parla. Ora dovrebbe essere in linea. No. Adesso ci senti? Ma vabbè, proveremo con senza grande amplificazione. Adesso? Ecco, perfetto, ora ci siamo. Gli astri celesti si sono allineati, quindi possiamo anche sentire Maria Grazia. Allora, ringraziamo tantissimo Maria Grazia che con un velocissimo messaggio di stamattina ci ha data disponibile comunque essere qua con noi sulle frequenze di Radio Wombat in questo momento. Ma ragazza abita in Trentino, nello specifico a Trento, e ci è venuto in mente di chiamarla perché comunque in tante delle varie attività che fa e supporta, insomma, fa parte anche di tutta quella corrente che si chiama Teatro dell'Oppresso, ed è molto attiva sul territorio di Trento e non solo, con un gruppo di Teatro dell'Oppresso. E insomma, volevamo chiederti Maria Grazia di raccontarci un pochino, insomma, che cosa è successo in questi mesi, perché per fare teatro solitamente ci si vede, c'è bisogno del contatto fisico, il Teatro dell'Oppresso poi è molto molto molto fisico, ma in questi mesi c'è stato anche, insomma, un, per esigenza o meno, insomma, un tentativo di utilizzare questo strumento anche per analizzare un pochino la società nonostante tutti gli impedimenti a cui siamo portati. Saluto tutti, ringrazio la dama per questa domanda, una domanda molto adatta in questo tempo in cui abbiamo un piede nel prima e uno sospeso fondamentalmente, non so neanche se è nel dopo. Al gruppo di Teatro dell'Oppresso di Trento è successo di fare un tentativo un po' inedito, cioè al momento della chiusura e quindi anche della chiusura della possibilità di incontrarci fisicamente in uno spazio e di avere i nostri corpi, i nostri respiri vicini, abbiamo proposto al gruppo degli incontri online. Silenzio. No, è stato comunque discusso, difficile, e non accolto bene da tutti e da tutte. Sento una fortissima eco della mia voce. Sei in viva voce per caso? Ma adesso non... Scusate. Se sei in viva voce, sì. Prova a toglierlo. No, no, non sono in viva voce. Nulla, e mi sa nulla. Che dovrei tenerlo. Convivere. Va bene, siamo uno in mi sento sto, mi sento sto rimbombo. Con una delle piattaforme che hanno così affollato i nostri una parte del suo accettato, ci siamo accorti che anche in quella, quel momento quello che serviva era un confronto sui stati dati. Noi ti sentiamo un po' male, tu prendi bene Marela? Sì, però so favorire spostando, no? Mi dite voi se va meglio, vi dispiace. Esatto. Questa cosa è emersa sia all'interno del gruppo, è un gruppo con persone che hanno relazioni ed è uno spazio, no? Questa cosa è mancata a tutti e a tutte. Anche di mettere un po' in relazione il nostro singolo stato d'animo con la situazione generale. Questo per dire da dove venivamo quando abbiamo deciso di uscire fuori, cioè di riconquistare. Dama, è così difficile sentire la sua voce? No, dico, a un certo punto siete usciti. Esatto, sì, la cosa interessante da raccontare è che a un certo punto siamo usciti. Diciamo che c'è stata una mobilitazione dei vari gruppi che fanno TDO in Italia e la volontà di mettersi un pochino in rete. E ci siamo stimolati l'uno con l'altro, io credo, raccontandoci le difficoltà e i desideri dei vari gruppi e anche le differenze dei vari territori, perché comunque l'Italia è molto variegata e anche questa situazione di Covid ha portato alla luce situazioni molto diverse. Dopo esserci confrontati ci siamo fatti forza, diciamo, e siamo usciti. Abbiamo pensato che la nostra azione in questo momento così in particolare potesse riguardare l'indagine. Cioè noi abbiamo scelto di non portare un tema in particolare, ma di chiedere alle persone nello spazio pubblico quali fossero i temi, che cosa questa situazione ha messo più in evidenza o di che cosa semplicemente desideravano parlare. E lo abbiamo... Come l'avete fatto? Nel senso, siete proprio esatto, siete proprio scesi in piazza e avete coinvolto le persone? Allora, sì, coinvolto le persone, no la piazza. Diciamo che in un 2 giugno di festa uno dei parchi cittadini di Trento poteva rappresentare la piazza in quel momento, perché sono persone di ogni genere, di ogni età. È un parco molto grande, in mezzo alla città, e quindi abbiamo potuto incontrare vari fatti teatro alla fine, per cui siamo andati con una portando una questa c'era. Ti stiamo perdendo Mari. Non so come mai la linea è un po' ballerina, è un pochino ballerina, ti si sente proprio a scatti. Comunque eravate in un parco e siete E siamo andati con una piccola storia. C'erano dei personaggi che non sapevano nulla, assolutamente nulla di quanto fosse accaduto e quindi avevano solo domande da fare. E questi personaggi erano un albero, cioè un grande un attore messo sui trampoli che rappresentava un grande albero camminante, e delle creature ai suoi piedi che avevano la facoltà di tradurre la lingua dell'albero nella lingua degli uomini, con un passaggio di informazione attraverso il bicchierino e il filo per mantenere le distanze e rimanere inattaccabili e anche un po' più morbidi con le persone. Erano tranquille vedendosi avvicinare con molto spazio. Mascherina, e abbiamo domandato fondamentalmente cos'è successo, che cosa state facendo, come vi sentite, cosa avete perso, cosa avete trovato. Abbiamo iniziato con delle domande, ma le persone avevano molta voglia di parlare. Questo è stato l'escamotage, la scusa. Quindi le persone si avvicinavano? No, eravamo noi ad avvicinarci alle persone. E quindi per quattro mini dettati dal filo, un grande albero, si sono avvicinati alla coppia. Senti, una domanda, ma lo rifarete? È l'inizio di un percorso? Perché mi viene da capire che in questo momento avete raccolto, no, del materiale. Esatto, abbiamo raccolto del materiale e questo è l'inizio. Noi pensiamo che rifarlo in un'altra situazione potrebbe anche darci del materiale diverso. Cioè non un giorno di festa in un parco, ma in un giorno qualsiasi in città, per esempio. Sarebbe interessante. Dopodiché vorremmo restituire i temi più sentiti, i temi che sono, abbiamo preso appunti su di lavagne. Vorremmo restituire questi argomenti in modo che si inizi veramente la discussione. Quindi noi possiamo offrire una rappresentazione con i nostri corpi che evidenzi questo problema e attivare quelli che si chiamano spettatori nel gergo del teatro dell'oppresso, iniziare a problematizzare questi temi. Non è sufficiente possiamo capire perché abbiamo sofferto, da fare per alleviare questa sofferenza, per dire un con sofferenza. Ci sono state anche risposte molto positive, per esempio. Beh, allora non lo so se mi sentite, perché improvvisamente io ho perso l'eco e ho riconquistato le mie facoltà mentali, perché è stato difficile parlare due volte con me stessa. Sì, no, sì, no, noi ti sentiamo. C'è stato un momento, un momento di perdita, ma ti sentiamo forte, forte e chiaro. Ogni tanto purtroppo va via la linea. E visto il racconto che hai fatto, insomma, comunque un'azione teatrale è riuscita a smuovere, insomma, degli interventi, vi ha aiutato a raccogliere, no, del materiale, e ancora ne raccoglierete se ne farete altre in altri contesti o meno. E a noi come radio ci interesserebbe proprio tanto. Esatto. Dopo questo tour, dopo queste due o tre o quelle che avete in mente di uscite, quando sarete pronti anche per la restituzione finale, se vogliamo rifarci un appuntamento, una diretta come stasera, in cui ci raccontate quello che avete raccolto, perché credo che sia importantissimo ascoltare, avere un'idea di quello che le persone comuni incontrate in un parco, in un centro paese o in chissà dove hanno da raccontare. Bellissima proposta. Quello che posso dirvi in più è che non siamo stati i soli, che in giro per l'Italia lo stesso giorno, in giugno, sono avvenute azioni molto simili. Ognuno ha scelto la tecnica che preferiva, oppure l'escamotage, diciamo, estetico che preferiva, però un'azione simile è avvenuta nello stesso momento a Bologna, a Milano, a Perugia, a Napoli, a Sanremo. La prossima volta che ci sentiamo possiamo collegare anche questi filurzi. Esatto, sì, sì, sarebbe molto interessante. Interessante, sì, collegare anche queste, tutte queste altre realtà per far venire fuori anche tanto quello che state facendo, poi anche cosa viene fuori dalle persone da questo esperimento, diciamo, sociale. Ovviamente una struttura ampia, un aspetto. No, Mari, ripeti perché ti abbiamo sentito malissimo. Probabilmente uno spettro ampio di sfumature. Sì, sicuramente. E forse la cosa che ci interessa è questa complessità. Assolutamente. Visto che ci hanno fatto capire che si fa in fretta a semplificare, forse ci dobbiamo allenare a complicare. Senti Mari, intanto per oggi ti ringraziamo, è stato veramente interessante, soprattutto anche grazie a voi. Sapere che poi c'è una realtà, no? Anche che c'è un collegamento di altre reti, e quindi ci aggiorniamo presto, così magari andremo avanti nel capire come si svolge questa particolare indagine con il Teatro dell'Oppresso. Grazie, buon lavoro anche a voi. A presto. Grazie ciao. Mille. Bene. Abbiamo notato, ci scusiamo con i nostri radioascoltatori se le voci andavano un po' e venivano. Esatto, ma, sapete, sì. Non è sempre semplice, però è interessante. Mi piace che si inizi veramente a trovare delle forme che non sono solo la chiacchiera, il dialogo, ma anche altre, per iniziare ad esplorare veramente quello che è passato negli animi delle persone, le persone più svariate, chi ha voglia di mettersi in gioco, chi ha voglia di partecipare, chi incontri per strada, quindi non sono magari sempre solo quelle dei nostri soliti circuiti con cui alle volte ci diciamo anche vabbè è facile chiacchierare, trovarsi, ragionare, sì, o eccetera. Sì, ma sì. No, è interessante perché come modo di approcciarsi a queste tematiche a volte le persone riescono a tirare fuori molto di più quello che hanno dentro all'interno di uno spettacolo, all'interno di qualcosa che li faccia sentire come una terza persona che quindi può raccontare in maniera più libera quello che ha sentito e quello che ha provato. E in effetti questo è un esperimento molto bello che, fatto proprio adesso, tirerà fuori sicuramente tante cose su cui poi lavorare, su cui insomma ci sarà tanto lavoro da fare per portarlo fuori, farlo conoscere e poi elaborarlo. Diciamo che magari possiamo anche darci questo obiettivo in queste dirette del lunedì sera, no? Ogni una tantum sentire in realtà come la loro, vedere come vanno avanti i loro sviluppi, e sicuramente chiedere ai nostri radioascoltatori, che anche se loro hanno da dirci qualcosa su quello che hanno sentito, provato, manifestato in questo periodo, ci possono scrivere nel pad, sì, o alla Medi Wombat, o trovare delle forme di comunicazione con noi, perché sarebbe interessante far venire fuori la vera voce dell'Italia, che non è sicuramente la mera voce dei giornalisti, dell'informazione o dei politici che ci sono. Va bene. Bene, sì. Passiamo un altro brano e così poi passiamo ad altro argomento. Altro brano, altro argomento. Vado di fretta, vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta. Gino mi aspetta, dentro un'alfetta, piena di muffa. Vado di corsa, vado a una festa, piena di muffa. lascia, forse ritorno ma non è una promessa. Vado di fretta, non vado di corsa, quello che serve è tutto dentro alla borsa. Per adesso mi basta. Maria, sei sempre mia, sei l'unica possibile. Ma di Gino io mi fido un po' di più. Lui mi conquista e mi rilassa. Gino e me stessi punti di vista. Per adesso mi basta. Hey, hey, sono gay, sono gay. Non sono gay, non sono gay, sono gay, sono come vuoi. Oggi sono lui, da domani poi se lo vuoi sarò lei, sarò solo lei. Mi dirai come fai, come mai, non lo sai cosa sei. Sei diverso da noi, ma che vuoi, sono gay, fatti miei. Che disturbo ne hai, quale enorme disagio ne trai. Sono gay, sì sono gay, ma non sono gay. Ma vorrei, ma lo sai, quanti geni d'eroi sono gay, non lo sai. O lo vuoi ricordare, preferisci pensare che un gay sia una sorta di errore. Una cosa immorale, o al caso migliore. Un giullare, fenomeno da baraccone. E lo tollererai su un quanto eccezione. Lo tollererai su un televisione. Lo chiamano gay e tu pensi ricchione. Maria, sei sempre mia, sei l'unica possibile. Ma di Gino io mi fido un po' di più. Lui mi conquista e mi rilassa. Gino e me stessi punti di vista. Per adesso mi va. Al castello, rieccoci al castello e sì, prima di rituffarci verso una nuova telefonata, la dama avevi da raccontare, insomma, da spiegare. Così, un insomma, po' perché abbiamo scelto comunque quelle. Abbiamo chiamato Maria Grazia, ma non a caso, non tanto solamente perché è una persona conosciuta, una cara amica, è una persona molto impegnata, ma anche perché, insomma, opera attraverso il Teatro dell'Oppresso. Due parole, insomma, su che cos'è questa cosa, no? Il Teatro dell'Oppresso, un brasiliano teatro d'opprimido, è proprio una metodologia teatrale che comprende differenti tecniche, ma quello che a noi interessa è che è utilizzato e si è ispirato soprattutto, dalla pedagogia dell'oppresso di Paulo Freire, che è un pedagogo brasiliano. E il teatro dell'oppresso, come la pedagogia dell'oppresso, nascono in questo clima di lotte operaie e contadine, in tempi in cui il regime oppressivo del Brasile degli anni 60 era forte e pregnante, no? Il teatro dell'oppresso veniva tantissimo usato da Augusto Boal, che è il suo ideatore, per proprio creare una coscientizzazione politica, per dare voce ai contadini, campesinos, agli operai, alle persone semplici che volevano esprimersi ma non sapevano come, no? Nella società. Attraverso il teatro dell'oppresso sono state fatte anche delle riforme, delle proposte di leggi, è nata una coscienza collettiva, insomma, delle persone, insomma, che meno vengono ascoltate come oggi. Quindi secondo me anche in questa situazione, no, di distanziamento sociale, di confusione, di politici che tentano ogni tanto, insomma, di stare un po' al di sopra, no, del popolo, che non lasciano parlare, non lasciano esprimere, o comunque che non chiedono, no, la loro opinione, utilizzare una tecnica così può essere veramente forte e utile per capire realmente nel popolo che cosa si nasconde, cioè che cosa c'è, quali sono i pensieri. E quindi speriamo, insomma, che anche questo lavoro che stanno facendo loro in varie parti d'Italia possa davvero poi portare a delle riflessioni che poi si possano anche tramutare in, non so, rivendicazioni collettive o proposte collettive di riforma, perché diciamocelo, come popolo italiano un po' avremmo bisogno di darci un pochino una mossa, che ci siamo un po' appiattiti. Ne approfitto anche se non mi è mai stato chiesto dalla diretta articolatrice, per dire che anche a Firenze c'è un movimento, no, che tende al teatro dell'oppresso, nel senso che c'è stato per un breve periodo un gruppo e forse ci sarà ancora, comunque c'è l'intenzione di una serie di persone, in particolare Alice, una mia carissima amica, di provare a fare delle azioni simili anche in città. Radio Wombat sicuramente vi farà sapere se, come e quando. Sappiatelo. Se siete interessati, scriveteci sul pad o alla mail di Radio Wombat per avere informazioni più precise di quello che, insomma, verrà organizzato prima o poi. Adesso direi che prima di passare all'ultimo collegamento, così, visto che si parlava un po' di teatro dell'oppresso, è nato in Brasile, mi piaceva mandare questa canzone cantata da Gonzaghinha, che dice: vivere e non avere la vergogna di essere felici. Bene. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda da resposta das crianças: é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e Eccoci ritornati alla nostra diretta del lunedì. Purtroppo veramente continuiamo a avere degli interminabili momenti di blocco, di blackout totale. Infatti ci siamo rassegnati e questo pezzo, mentre quello prima sì, questo pezzettino non sarà in diretta, però noi lo registriamo lo stesso così lo possiamo mettere nei podcast. Chiediamo scusa a Marco che ci ha dato da Modena, insomma sindacalista, che però ci ha dato la disponibilità a essere con noi lunedì prossimo, quindi se siete interessati ricollegatevi verso le 8 su Radio Wombat lunedì prossimo. E ora lasciamo spazio alla nostra amica Dani, però almeno lei, mitica Dani, ci dà un contributo settimanale, non possiamo non mandarlo in onda, nonostante le problematiche tecniche. E a voi la sua rubrica, la rubrica della Dani. Nuova settimana, nuovo appuntamento con la rubrica più divertente della quarantena, Vivin Q e la sua speciale Q Play Chart. Che cosa uscirà oggi dal cilindro? Proprio non lo so, ma sicuramente non il coniglio, dato che l'isolamento è stato prolungato fino a Pasqua. Anche oggi voglio divertirmi con voi associando un brano ad ogni momento o situazione della giornata. E allora pronti? 3, 2, 1, via! Da una recente ricerca è emerso che tra i siti più cliccati durante questa quarantena ci sono sicuramente quelli che propongono video di ricette ed esercizi di fitness per mantenersi in forma. Insomma, sacro e profano si uniscono ancora una volta nella mente dell'italiano medio, che poi è quello che va in chiesa la domenica ed esce buttando quattro madonne. Comunque, entriamo nello specifico dell'argomento di oggi. Primo step. Hai sempre pensato che cucinare fosse un'attitudine che proprio non ti apparteneva. Insomma, una lacuna, un po' come quando a scuola ti ammettevano all'anno successivo, ma con il debito in matematica perché proprio non c'era verso. Decidi allora che adesso hai tutto il tempo per applicarti e sbattere in faccia alla clerici le tue ricette alla cracco. Però succede che... Eh sì, niente, dopo 10 video tutorial, 1000 cambi di programma perché ti manca questo o quell'ingrediente e 12 piatti rotti, ti arrendi e decidi che il 4 salti in padella andrà benissimo anche per oggi. Però ti senti un po' in colpa per quella cena un po' abbozzata e anche per i 12 piatti rotti. Così, colto dalla delusione, decidi di consolarti con un film. Nell'alzarti da tavola, però, con la coda dell'occhio, noti un dettaglio. E quello si fissa lì e azzera tutto il resto. Sì, sei passato davanti allo specchio e l'hai visto. Quel filo di panzetta prima non c'era. E pensi, no, vabbè, ok, devo assolutamente fare qualcosa. Sì, ma che cosa? Eh già, tiri dentro la pancia una volta, due, tre, piangi, cinque volte, ma lei è sempre lì, è una roba sì alla Stranger Things, e allora scatta qualcosa in te, ok, stasera, anziché l'ennesimo film, mi cerco un tutorial e mi rimetto in forma. Allora apri internet, giri qualche sito, guardi un po' di video, spolveri il tappetino, che ormai era diventato il regno del gatto, togli i pesi da sotto il letto, scoprendo che se erano là, in realtà un motivo c'era, e quindi dovrai anche pensare di noleggiare un furgone quando sarà riaperta la discarica. Ma comunque, come sempre, accadono cose strane, per cui per quello del video è tutto facile, ma per te pure il riscaldamento risulta una roba difficilissima. Quindi movimenti che dovrebbero essere dolci ed armonici diventano grottesche danze macabre, eppure il gatto decide di toilettarsi da un'altra parte. Ma comunque, tu sei tenace e non molli, soffri come un cane, ma vai avanti, e al termine della mezz'ora di tutorial... Ah, solo mezz'ora? M'era parsa una vita. Ti senti carico e tonico, sei sfinito, ma fiero, torni davanti allo specchio, quello specchio infame. E sì, ci torni più o meno con la stessa aria di sfida della regina di Biancaneve. Alzi la maglia, respiri e... Ragazzi miei, anche per oggi il nostro spazio con Vivin Q termina. Oggi ci siamo presi un po' in giro mischiando sacro e profano, quindi cibo e fitness. E niente, torneremo domani con un nuovo appuntamento, delle nuove canzoni, ma delle nuove e mirabolanti perculate. Ciao a tutti! grande la Dani. E rientriamo e in questo momento vorrei dare proprio la voce al nostro gringo, perché lui si è preparato, ha studiato per questa puntata. Ho studiato e volevo fare una piccola panoramica su tutto quello che ora in maniera molto forte sta venendo fuori dopo la morte di George Floyd, che ricordiamolo è questo cittadino americano che durante un fermo di polizia è stato ucciso praticamente. E la dinamica molto controversa, come al solito. Le prime dichiarazioni della polizia dicevano che lui si era opposto, poi c'erano le telecamere di una farmacia vicina che hanno ribaltato la situazione, facendo vedere invece come George Floyd era comunque collaborativo durante il fermo. E beh, quindi mi viene da dire, scenari visti, rivisti, stravisti miliardi di volte, eppure ci risiamo. Esatto, poi si può dire tutto il mondo è paese da qui, perché si ripetono sempre le stesse dinamiche Si può dire che l'uomo impara dalla storia. No, perché? si direbbe proprio di no. E quindi volevo, insomma, c'è stato tutto, a parte che c'è già una voce su Wikipedia sulla morte di George Floyd, e questa cosa mi ha fatto un po' strano, perché il giorno dopo sarà comparsa questa voce. Infatti è la cosa che mi fa strano, il fatto che sia un fatto di cronaca nera avvenuto il 25 maggio 2020, proprio, esatto, 2020, ieri l'altro, e che già è come se fosse qualcosa di assodato, cioè ci dovrà essere un processo, ci dovrà essere, insomma, processi sommari non sono mai stati una cosa buona, ecco. Quindi un po' mi fa strano vedere già una pagina Wikipedia come se fosse qualcosa di storico, assodato, una verità. Insomma, sappiamo tutti che dai video, dalle testimonianze, quello che è successo. Però anche, diciamo, nei confronti dei familiari, non lo so, mi sembra un po' prematuro, ecco, fare tutto un excursus già. Come se fosse qualcosa di assodato. Comunque, detto questo, che cosa sono scaturito, nate, esatto, è scaturito tutto tutta una serie di proteste che si sono allargate sempre di più negli Stati Uniti, coinvolgendo tantissime città di tantissimi stati americani. Alla testa, diciamo, di questo malcontento c'è questo movimento che si chiama Black Lives Matter. Un movimento che è nato nel 2013, anche lì dopo la morte di un afroamericano, tale Trayvon Martin. Il movimento non è nato solo per rivendicare la morte di un afroamericano, ma era nato anche per il contrasto fra quella generazione, quindi fra questa generazione di giovani, contro la gestione di queste rivendicazioni un po' subalterna, un po' succube, fatte dai padri nei confronti dello Stato americano. Quindi c'è tutta una, insomma, non è semplicemente un protestare solo quando muore qualcuno, ma è qualcosa che si è dipanata nel tempo, e oltretutto c'è stato un po', ovviamente dal 2013 a oggi, diverse morti diversi afroamericani uccisi dalla polizia, e quasi a sembrare a diventare normale questa loro lotta. Invece c'è stato tutto un lavoro culturale che ha potuto portare anche a queste sommosse, possiamo chiamarle anche così, che poi hanno travalicato i confini americani fino ad arrivare un po' in tutto il mondo. In Italia cosa succede? Il 6 giugno a Torino c'è stata una manifestazione, il 7 giugno c'è stato a Milano, Roma, Pisa, Bergamo, Messina, La Spezia, Prato. 9 giugno ci sarà domani Brescia, Parma. 10 giugno Udine, 11 Lecce, 12 Treviso, 14 Caserta, 15 Piacenza e Torino. Queste almeno quelle che siamo riusciti a trovare. In tutto questo, insomma, c'è un grosso sostegno da parte della popolazione mondiale anche le Nazioni Unite si sono espresse, anche se a parer mio, cioè almeno personalmente non mi rappresentano, comunque denunciando i linciaggi razziali che avvengono nei confronti, allora, parlavano proprio nello specifico degli afroamericani riferendosi a George Floyd, e anche 66 esperti di diritti umani, sempre della stessa organizzazione. 66, numero preciso. Mazzano. Esatto, 66. È un numero che è girato anche nei giornali, non è un... hanno fatto due diverse dichiarazioni sulla violenza e il razzismo sistematico della polizia americana, nei confronti di tutti, e poi in particolar modo ci sono tanti dati su cui non è inutile stare a confrontarsi, dati che parlano di quanti afroamericani vengono fermati rispetto ai bianchi e quanti vengono messi in carcere rispetto ai bianchi, quanti vengono uccisi, ma diciamo che al momento lasciano il tempo che trovano, anche se hanno magari un fondamento statistico. Comunque gli esperti in un'altra dichiarazione parlavano anche, tiravano in ballo Trump e sulle sue dichiarazioni sempre fuori luogo, togliamo il quasi, perché sempre sempre fuori luogo, sempre solo, soprattutto il linguaggio che usa, che evoca un po' i segregazionisti del passato, e quindi diciamo che puntavano un po' il dito puntavano il dito contro Trump e contro il suo linguaggio sempre fuori luogo, soprattutto in questi casi. Speriamo che tutto ciò smuova un po' questa America. Esatto, America, tutto Stati questo Uniti a d'America. 5 mesi dalle elezioni, si spera che ci sia un cambio di passo, anche perché un radicale cambio. Esatto, oddio, noi ci siamo tenuti Berlusconi per 20 anni, e quindi alla fine ci siamo arrivati, duri, ciucchi, ma ci siamo arrivati anche noi. A votare peggio. Esatto, ora peggio non lo so. Mi hai anticipato, Dama. Non si sa se siamo andati in meglio o in peggio, ma diciamo che negli ultimi anni non... siamo molto critici nei confronti dei governi, anzi... personalmente è una tragedia che siamo critici, è una tragedia ma diciamocelo, è una tragedia, è veramente una tragedia. Sì, sono d'accordo. E questo era per dire un po' cosa sta succedendo dopo la morte di George Floyd, che fa ben sperare in una in un nuovo vigore dell'orgoglio nero, come viene definito, e anche diciamo in un sommovimento un po' più ampio, non solo degli Stati Uniti, che possa portare a un vento nuovo, insieme magari a due considerazioni sul post-Covid, magari su come vorremmo la società dopo. Speriamo. La speranza è l'ultima a morire. Esatto. E noi cerchiamo sempre di buttare pillole di speranza qua e là affinché magari vengano raccolte e inguiate. esatto. Bene. Allora vi lasciamo con... Vi lasciamo con l'ultima canzone. Una puntata brevissima, in onda solo per metà. L'altra metà sono nei podcast. L'abbiamo persa. Siamo per strada. Veramente stanchi perché non ci capacitiamo. Questo buco nero che si è creato al castello probabilmente si è portato via anche tutta una serie di programmi funzionali. Esatto, oppure se l'hai portati via il buon camice, andandosene qua di soppiatto. Esatto. Glielo chiederemo al suo ritorno. Vediamo, indagheremo. Vai, grazie per la pazienza e ci riaggiorniamo a lunedì prossimo con questa diretta, oppure mercoledì per chi vuole riascoltare le nostre voci su Radio Contado. Viva il Wombat! Viva il Wombat! I knew a girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning planning on putting it to use. If she had diamonds on inside, she had diamonds on inside. Into the darkness, in a nasty world, so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why first. Say inside, she had died.